Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, seguiamo da vicino la situazione in Italia, ma per rispetto del processo democratico in corso non rilasciamo commenti. Questa è di fatto la posizione finora di Bruxelles, espressa dal portavoce della Commissione europea Pia Hansen. Risultati delle elezioni in Austria: i socialdemocratici del cancelliere Faymann sono arrivati al 27%, dunque in calo, ma la notizia di oggi è legata all'FPÖ di estrema destra, che diventa il terzo partito con oltre il 20% delle preferenze. Per una Germania che si cristallizza sulla cancelliera Merkel, c'è un'Europa in evoluzione. Dell'Italia sappiamo tutto, salvo quello che accadrà nelle prossime ore, si intende. Dell'Austria constatiamo oggi che la grande coalizione al governo quasi ininterrottamente dal 1945 continua a perdere pezzi. Nelle elezioni di ieri, socialdemocratici e popolari prendono insieme quasi il 51% dei voti, ma l'80% di un tempo è lontano. Anche se il cancelliere Faymann fa buon viso a cattivo gioco. Quella che era una realtà concreta prima delle elezioni resta confermata, dice. In questo paese si può costruire un governo stabile senza l'estrema destra del Partito della Libertà. Sarà per questa volta, ma il partito euroscettico che fu di Haider avanza. È il primo partito di opposizione. Sfiora il 22% con un progresso del 4%, mentre i Verdi arrivano solo al 12%. È certamente di rottura anche il risultato delle elezioni municipali di ieri in Portogallo, dove i socialisti hanno conquistato almeno 130 comuni contro i 90 del centrodestra, umiliando il governo proprio a Lisbona, dove sono stati confermati, dimezzando i consensi della destra. I cittadini hanno voluto bocciare l'austerità concordata dal governo con Bruxelles. Mi continuerei a battere. Continuerò nel percorso intrapreso finora, però subito assicurato il premier Passos Coelho. È indispensabile per superare la crisi economica e ristabilire la fiducia e la crescita del Portogallo. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tutto naturalmente in vista del prossimo imminente vertice dell'Unione. Parla anche David Cameron, dunque il premier britannico. Ieri all'incontro, al vertice del partito conservatore, dice serve un negoziato molto radicale sulla relazione tra Regno Unito con l'Unione Europea. Infine parte l'avventura della prima donna a ricoprire l'incarico di mediatore europeo. Domani si insedia l'irlandese Emily O'Reilly, eletta lo scorso giugno dall'Europarlamento per sostituire il greco Diamandouros. Bene, con questo è tutto. Europa 24 torna domani alle 14. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.